53 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa. Ce la faremo stasera? Stanotte? Per farcela meglio, magari fate sentire che ci siete, eh? Che ormai da tempo non si accende nulla, bisognerà, l'abbiamo già detto, venire col cacciavite e trovare le pinze, il tester, capire perché qua non si accende più la luce del telefono. Che Radio Onda Rossa funziona così, se non è ancora chiaro a chi ci ascolta. C'è una radio autogestita e significa che se c'è un problema, insomma, uno si alza, si rimbocca le maniche e si cerca di risolvere. Si chiede, si domanda in giro, si cerca aiuto e poi alla fine. Molto alla fine. Però alla fine vanno in porto le cose. E miracolosamente vanno in porto, come questa radio c'ha 46 anni. Che trasmette prima su 93.3, 93.4.50, adesso sugli 87.9 della modulazione di frequenza. Senza aver mai fatto un minuto di ricorso alla pubblicità. Senza mai aver ricevuto, essersi appoggiata a partiti o partitini che comunque la potevano sostenere, coi fondi pubblici, con queste robe qua, insomma, si sono presi finché era possibile prenderli qualche rimborso di quelli che venivano dati per l'editoria, ma erano veramente degli spiccioli. Diciamo che quello che è l'affidamento principale che facciamo è il ricorso a tutte e tutte che ci sostengono e vengono a portarci, ci portano i soldi, ce li inviano con i più diversi mezzi, non ultimo ovviamente quello del radioabbonamento. Campagna di radioabbonamento che a cui potete facilmente aderire andando su www.ondarossa.info, che è il sito della radio, cliccando sul banner che campeggia sopra tutte le altre cose, e cioè i podcast delle varie trasmissioni, delle corrispondenze, le cose salienti che vanno in onda. Non dico 24 ore su 24, però insomma, in giornate come oggi, dalle 8 di mattina fino a quando ce la facciamo, dicevamo. Anche qui è un pochettino compito vostro tenerci svegli. Dovremmo farlo noi in realtà, Però appunto ci si aiuta, specie dopo che si fanno delle tirate lunghissime, settimane, mesi interi senza mai dormire, e poi si paga il conto, No vabbè, giochiamo. Quindi www.ondarossa.info troverete anche le altre modalità per sottoscrivere e sostenere la radio, e cioè il conto corrente postale, andando su sostieni appunto troverete il conto corrente postale, che vi ricordiamo 6180401, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2100185, via dei Volsci 56, Roma San Lollo. Ci stanno pure al lato, sulla colonna a destra del sito, ci trovate anche le iniziative della radio. basta cliccarci dentro, volendo si può sentire anche lo spot se ci avete qualche web radio, insomma se li volete diffondere sui social, prendete sti spot, metteteli, caricateli sul sito di cui avete il controllo e ci farete una grande cortesia per fare in maniera tale che alle feste, i giorni di festa di Radio Onda Rossa che compie appunto fra una settimana esatta i suoi 46 anni, ci sia tanta gente a brindare con noi. E così già abbiamo introdotto l'argomento della serata, visto che mercoledì prossimo appunto è giorno di festa e quindi... non ci saremo ai microfoni o ci saremo nella forma non consueta e comunque ce ne dobbiamo andare a una certa. Quello che noi abbiamo 06491750. Dai, è quello che ci siamo presi, è quello che ci siamo presi, è solo una piccola parte di quello di cui abbiamo bisogno. Dove non cambia mai niente. Tutto è come brava gente, parola di presidente tragica. Ridicola, grottesca, macchietta, giustizia, dove sei nascosta? Vedo arrivare merda, valanga. Le spalle al muro, le porto in prima linea. In questa nostra terra di nessuno. Serrati! Dobbiamo essere uniti! Senza luna al freddo, guadagnando terreno sul nemico fra la giungla e l'assalto all'assalto, seguendo la natura d'animale braccato, fra il pensiero e l'istinto reagendo, muovendo il contrattacco e frontale l'assalto, contemporaneamente nello stesso sogno, forse tremendo il destino in agguato, ma di certo non abbandono il campo. Senza paure, senza paure. È un assalto frontale. E nel frattempo che ricordiamo quando eravamo pischelli, questa roba c'ha 30 anni più o meno, del 1991. Fantasma di un fantasma di stazione inesistente chiamata Roma Nomentano, un punto in mezzo a niente. E quindi stiamo parlando di storia, assalti frontali che aveva, ma ha ancora in qualche misura l'aspetto di un collettivo comunque. Solo il calore dei colori, di sogni raccontati sui muri. Al centro la figura così di Luca, che comunque è sempre stato il promotore, l'animatore, un po' il... voluto più tempo, so quanto avresti voluto più tempo per parlarci, per abbracciarci e oggi... Il cervello di tutto il progetto, il cervello, la mente, l'anima... E ho da farti un duro racconto. Hanno bussato alla mia porta di... Ma in questo progetto è girato un po' tutto il mondo, veramente da ogni luogo. L'incendio, l'inferno di Lamiere, e sotto le macerie un fiore della città, ma anche da fuori la città. Insomma, avete riconosciuto senz'altro la voce di Luix. Inganni adesso, in questo incipit appunto di... Mi sento quanto ci sono dentro, così forte sento a quale parte appartengo. Terra di nessuno, lavoro del 1990. Ma stiamo parlando di storia, sono passati tanti tanti anni. Urlo di andare avanti e ti voglio dire, anche se non lo so, se non... Quel che non è passato però è lo spirito ribelle, la voglia di contestare valle, non chiedere... lo stato di cose presenti. Se nella vita così è... E in questo diciamo che il progetto Assalti Frontali, almeno per la mia generazione, è un po' il progetto che ha così fatto da colonna sonora, fatto da voce, non fiorire o finire ogni volta, rispetto alla storia che forza di capire chi faceva i suoi passi. Non ha nessuna voglia di capire, ricordo come un'onda di ritorno, quanti personaggi, troppi. Perciò andiamo un po' di anni avanti, magari torniamo indietro e poi arriviamo poi a Courage. Divisi fino all'infinito. L'ultimo lavoro uscito in questo 2023 per Assalti Frontali. E per preparare la festa di Onda Rossa, 25 o'clock, 87.9 della modulazione di frequenza, la banda romana laziale. A uno, sono tutti quelli che non mi sono mai lasciato dietro. Onda Rossa, @ondarossa.info per le vostre comunicazioni alla radio. 25 o'clock 25 scritto a numero per cammino, passo dopo passo. @ondarossa.info per contattare noi altri. Un lampo sfreccia proprio sopra la mia testa. Sul ponte delle valli, una luce azzurra lampeggiante con un urlo regolare a intervalli. E in un istante, come a San Lorenzo, penso a quello che... Stavo in macchina ascoltando la mia radio preferita, pensando al mio prossimo caso e ai casi della vita. Insomma, gli affari di un rapper militante, quando la mia city mi appare devastante. Era notte, io andavo adelante, un cavaliere errante col mio passo di elefante. Ogni incrocio, detriti, ostacoli, mura, camion, frigoriferi e destini che mettono paura, prendi assalti. Prendi questa Bendy Pop. La mafia si è mossa per metterci uno stop. Che facciamo? Che intrecci oscuri. Qui come lavori, incontri ritorsioni. Ma bisogna avere fede e allontanare il prete. Dietro ogni vicario c'è sempre porno minorile in rete. Di chi fidarsi qua? E quello

risolvere intanto un problema imminente, che è quello, o immanente, che è quello di avere un tetto sotto la un tetto a difenderci dalla pioggia. Ho un nuovo traforo tra la servitù nucleare, militare, dal voodoo commerciale. Ehi, cosa dobbiamo fare? E appunto, anche in quei tempi soffiava un vento di rivolta, poi probabilmente non siamo stati bravissimi. Ma c'è anche resistenza e noi la facciamo. E bravissime a mettere a profitto, diciamo, mettere a frutto quel periodo di lotte. Puoi sgomberarci, ci fa un clima ostile, ma ci sono molte altre sacche. Torniamo invece al secondo disco di Assalti. Voi come pensate di colpire? Noi andiamo crescendo, andiamo sempre meglio. Questo mondo di mille mondi è sveglio. Noi andiamo crescendo, questo non ti piace. Prodotto, i suoni prodotti da, registrati da Dom Zintara, ancora Bruto Pop, e non come che al completo come band, non solo il solo Bonnò a curare quindi la parte delle basi. Però ci non mi arrenderò, non mi arrenderò, le armi non le consegno, no, questa è una lotta senza resa. Ricordiamo il disco presentato al Forte Prenestino in un concerto enorme con Fugazi. E c'avevamo lo stesso sonno che stasera, dopo una lunghissima giornata lavorativa, lo ricordiamo veramente come fosse ieri, passata a fare traslochi. Venite a prenderci semmai. Era il periodo in cui da poco era stata sgomberata la prima sede, il primo luogo occupato del centro sociale La Torre, sulla Nomentana. È ancora vento di rivolta che va a raccontare Assalti Frontali e Luca. Con vecchi lupi della city quali siamo noi, ai lati della strada pollaiati come gli avvoltoi, ad aspettarti per farti nostro. Questa è In Movimento. Ne abbiamo visti nella vita, capirai cosa vuoi che ci impressioni più a noi ormai. Da un lavoro dal titolo eloquente Conflitto. Dove passa questa cruz, boccia nei fiori, scuola rap, metodo Montessori, educati a pratica. Soddisfazione che mi assale non mi lascia. Così cerco le risposte alle domande della vita, e fa finire che una sera dietro l'altra, con questa storia che continua, con quest'anima inquieta, capace che si aprono di tutti nuovi. Una passione che mi sta passando il cuore, magari avrei voluto una rivoluzione per il momento. Faccio un movimento per il movimento. Fermata a Bologna, col manifesto in tasca, in faccia una ventata fredda. Io inserti, disperso nei cambiamenti della notte, camminiamo senza fretta. Controllo e consapevolezza, controllo e consapevolezza, mi ripeto in testa. Vivere è difficile, qui si sbrocca facile. Piove, piove odore di strada bagnata nell'aria, al clima di una piazza, di una città razzista. E indifferente come Roma sa essere, nel volto molto familiare dei miei concittadini. È conflitto, per noi che non vorremmo confini, né una parola falsa come tolleranza. Potremmo essere più ricchi tutti, ma chi non pensa a sé, dal suo piccolo tranquillo ediglio. Una svolta ci vuole, quanto sta di forte ci vuole. Un movimento, finire che una sera dietro l'altra, con questa storia che continua, va a finire che una sera dietro l'altra. Una passione che mi sta passando il cuore, magari. Una passione che mi sta passando il cuore. Un movimento serio, con un vivaio pieno, no, la giornata, non una guerra privata. La gente in attesa, legge sport su quotidiani vari. La radio dentro al bar, ma solo assurda musica italiana, tipo il di peso animale. È lunga ma una guerra, si combatte una battaglia alla volta, come l'anima di un gioco che a volte non ha un logico filo. Il futuro oggi arriva addosso di continuo. Tutto cambia, ma queste tasche vuote, la stressante mancanza di denaro, non mi lasciano mai solo mentre mi muovo in un quartiere come questo. E per questo quartiere un po' di sani scontri fanno sempre bene. Un movimento spinge avanti sempre, anche se a volte sembra quasi che possiamo stare tutti in una stanza, come dissero i suoi durante la resistenza. Va a finire che una sera dietro per il momento, faccio movimento per il movimento. Sonno profondo, riconosco la suonata da svegliare tutto intorno. Chi vuoi che sia a quest'ora storta? Carabinieri sveglia o buttiamo giù la porta. Io apro, dico zitti, fate piano e state calmi. Mia figlia dorme e qui non ci sono armi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carabinieri fanno loro ingresso in casa ed hanno dei pensieri. Volete me, forse per qualcosa delle posse? Questi mi vogliono per le brigate rosse. Niente che, niente se, niente ma. 30 secondi e sono già in stanza di militantà. C'è l'antiterrorismo con i suoi programmi. Mi prendono il computer con lavoro accumulato in anni. Fissati dall'idea che la mia voce sia associata alla Desdemona agli oggi. Che stress, i Ross, e il 270 bis. E il 270 bis. Che stress, i Ross, e il 270 bis. Che stress, i Ross, e il 270 bis. E il 270 bis. Che stress, i Ross, e il 270 bis. Microfonato in auto e ti figuri al cellulare. Microfonato, manco fossi qui al microfono a rappare. Faccio un commento, pensano male. Ogni appuntamento lo ritrovo sul loro verbale. È solo l'inizio, cercano un indizio. Che so, un indirizzo per il sodalizio. Mi accorgo che ce l'hanno proprio con me. Hanno informative pure dove prendo il caffè. Ma che coglioni, un anno e mezzo di intercettazioni. Vivo la mia vita, seguito da guardoni. Mi stanno addosso manco il giudizio di Dio. Sono un terrorista e non lo sapevo neanch'io. Sono convinti che nascondo la pistola, ma io nascondo solo la mia rima finché non fa scuola. Che stress, i Ross, e il 270 bis. E il 270 bis. Che stress, i Ross, e il 270 bis. Allarmi, arresti, allarmi e processi. Ross in carriera, grandi successi. Stress, io lo chiamo in questo modo, ma questo stress ha un significato. Che stress, i Ross, e il 270 bis. E il 270 bis. Che stress, i Ross, e il 270 bis. Larga è la scena, lunga è la lista, 270 bis. Associazione terrorista. E chi se ne frega se non c'entravi niente col 270 bis. Qui nessuno è mai innocente. Disegni, scrivi, scrivi. Che si coglioni sono tutto cattivi, forza. Scrivi, scrivi. Questi coglioni sono tutto cattivi. Controllate Ross, controllate tutto. Controllate sempre ma poi non capite niente. Di Ghost e Ross, ministro e PM. Sempre le calcagne ma poi non capite niente. Di Ghost e Ross, nella nuova inquisizione. Voi vi presentate a casa col decreto di perquisizione. Ma ora su forza, show, filate via. Questo non è il paese della polizia. Oh, fai vedere quel cassetto, no? Sta mandato qua, eh? Non scherzi se non ci scherzi qua, eh? A pochi intenditori, poche parole, eh? D'accordo, ma qua non facciamo. Non facciamo cose che vuoi. Voi scherzate con il fuoco! Voi scherzate con il fuoco! E adesso sono cazzi si conti! Vi schiaffo dentro, è chiaro? E quindi 23 e 24 minuti primi sulle frequenze di Onda Rossa. Ancora storie raccontate, storie che ci riguardano tutte e tutti. I miei amici lo so. Quelle della repressione, del controllo. Che ho, sono pazzi. Anche quelli con l'aspetto da bravi ragazzi. Ce ne fosse uno sano, un po' normale. E però la forza è quella di pubblicarle queste storie anche ai tempi, come in quel 2006, quando ancora i social non erano proprio affermatissimi, insomma c'era il MySpace, non so quali altre piattaforme, sono loro a dare luce ai tempi tristi, si levano in città, forse Facebook, ma non è che insomma non... E quindi meglio di mettere in rima queste racconti, queste vicende, queste storie. Taglie corrono dalla parte sbagliata, a rischio di galera o di manganellata. Cosa avranno dentro? Quale storia sovrumana? Se per loro suona sempre la campana, cosa cercheranno? A metà fra il serio e il faceto, prendendo un po' in giro, ma insomma. Ora dove stanno? Dove staranno? E che ne so? Facendo trebelare pure la pesantezza di sta roba. Ci sono così tanti, tutti fuori, ora cosa fanno? E passiamo perciò al, facciamo un bel salto e passiamo al 2023. Eppure qui ci sta lo sgomento della nostra generazione. Cattolico dal tubo. E chi se lo sarebbe aspettato, tutti reclusi in casa per settimane, per mesi. Europei. Chissà cosa gira in mente, ma cervelli banditi. Sempre nelle strade, sempre più ammattiti. Che al di là delle motivazioni. Tornare a casa e nessuno ci. Comunque era un bel esperimento su cui approfittare, su cui studiare. Un esperimento di controllo sociale, un esperimento di distopia possibile. Foresta, fissati come sono anche fuori contesto. Nel momento in cui il manovratore diventa sono che ogni spazio così più sensibile, più in crisi, come potrebbe dire in greco. Che ne so, in giro a fare qualche danno. Mai stanchi sono così tanti. Ma un po' più me li ricordo tutti fuori. E poi poco dopo faranno. Un'altra guerra in Europa, un'altra, eh. Sono così tanti, da qui li vedo, li conosco tutti quanti. Però stavolta una guerra fra la NATO e la Russia. Per aprire un varco devono mettere in salvo la vita. E come farla franca? Non è facile mica. I miei amici. Tutta la pesantezza e la preoccupazione del caso, e anche qui speciali. Militantà Luca Masci. Sono poco a poco perché sono quelli che per te si buttano nel fuoco. Sui miei amici io ci faccio conto ogni momento. Ossia assalti frontali e Bonnò, almeno nella formazione attuale. Cercano di raccontare il loro punto di vista. Cosa io dentro che mi ripete cosa fai? Guarda un po' qua, ma che amici che hai? Una voce che mi dice. Tanta, ma che sei scemo? Avessi un amico che non sia mezza niente. E ora dove stanno? Dove staranno? E che ne so, gira fare qualche. Uno stato immorale ci fa la morale. Uno stato immorale ci fa la morale. Con un banchiere in generale mi rende illegale. A me che ho fatto solo bene, mai del male. La vita pesa al filo dell'esistenza. Neanche il tempo di guarire in convalescenza. Nasce la guerra in 48 ore. Ti avevo già detto che io sono il disertore. Ora mi coppo col cappuccio sulla testa. Faccio rap per la strada anche nella tempesta. Se proprio il sangue vi serve a ogni costo, signori al Parlamento andate a dare il vostro. La resistenza vincente, imbattibile, è quella senza armi che sembra impossibile. Con le menti e corpi a mani nude, tutto il resto porta dentro la palude. Armi, bombe, soldi, banche, profughi, orfani. Fai violenza, sangue, la NATO porta solo casino. Non l'ha buttato giù la NATO, il muro di Berlino. Con la parrucca bionda e mio figlio per mano, passo il confine travestito, sono un partigiano. Se scoprono il trucco c'è la corte marziale. Non sarò ma soldato della guerra mondiale. A me non piace la NATO, da quando ero bambino. Amo il popolo russo e anche quello ucraino. E curdo, afghano e palestinese.

23 e 39 minuti primi abbiamo così criccato completamente, dando una serie di comandi con un cellulare appoggiato sulla tastiera. Ve lo racconto perché è figa. Un cellulare appoggiato sulla tastiera che ha lanciato una marea di applicativi, per cui ha craccato, ha crashato completamente il PC della regia. Adesso stiamo chiudendo le iconcine una alla volta. Nel frattempo la vecchia tecnologia del CD ci manda i cactus. Chi sono i cactus? Ve lo diciamo fra poco. O meglio, chi erano? Siamo andati per le vie speech e vi diciamo che i cactus erano, perché siamo passati nel frattempo alla parentesi successiva riguardo alla tre giorni di festa per Radio Onda Rossa, il 24 qua sotto la radio, e poi le musichette che stiamo ascoltando. Sono quelle relative al 26 e 27 maggio all'ex SNIA Viscosa, via Prenestina. Nel frattempo stiamo riavviando tutto l'ambaradan e ci vorrà ancora qualche minuto, però. Vi ricordiamo che siate all'ascolto nelle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale da 46 anni, meno una settimana. In onda, in FM. Ed eccoci quindi a concludere la parte programmata per Assalti Frontali. Se andiamo fuori, Boss del G, è perché non vi si regge, ma abbiamo dentro una forza che ci protegge e sorregge. Se andiamo fuori legge, è perché non vi si regge, ma abbiamo dentro una forza che ci protegge e sorregge. All'angolo di strada di Torpignattara, ogni mattina e sera è una caspa del Sara. Polci seduto al solito tavolo, non sa che oggi c'è anche la zappa del diavolo. Qualcuno lo osserva sotto copertura, ma poi lo tipo culo e non se ne cura. Alle 6 pm prendo un cappuccino, scrolla Telegram sul telefonino. Zighini, pizza, odore di cipolle, la gente qui respira dopo il lavoro folle. Si raccoglie, la marijuana spampa, ma c'è anche chi è pronto a spifferare alla stampa che un ragazzone è stato arrestato per una legge ingiusta di un narcostato. Vuole fuori legge perché non vi si regge, ma dentro ha uno spirito che lo sorregge. Oggi è l'MC dell'allegria, e se ti senti solo qui c'è compagnia. La gente viene, la gente va, vieni anche te a godere di tanta umanità. Volgi, Volgi è il nostro MC, e tutti quanti in coro Free Volgi. L'hanno beccato come il boss dei G, ma era solo erba, basta arresti per la weed. Se andiamo fuori legge, è perché non vi si regge, ma abbiamo dentro una forza che ci protegge e sorregge. La gente non è stupida, capisce che succede, chi sono i veri criminali, chi è sul marciapiede. Quando cerchi l'erba e scende la sera, ci sono prigioni più grandi della galera. È la violenza creata contro i vostri stessi figli, che non hanno nessuno che li dia veri consigli. Spinti nell'angolo per una canna, nell'illegalità che li condanna. Come Peter Tosh, che può tirare dritto, come Bob Marley, lotto per ogni diritto. Nel mondo la comprano dentro uno shop, qui al referendum mettono sempre stop. Questa cultura è seria, è cultura grossa, è la nostra storia dei tempi di Onda Rossa. Ma c'è qualcuno che può farci male, Volgi, Volgi, sempre prima sul giornale. Volgi è l'MC dell'allegria, e se ti senti solo, qui c'è compagnia. La gente viene, la gente va, vieni anche te a godere di tanta umanità. Volgi, Volgi è il nostro MC, e tutti quanti in coro Free Volgi. L'hanno beccato come il boss dei G, ma era solo erba, basta resti per la weed. Basta resti per la weed. Resti per la weed, basta resti per la weed. Quindi si cambia nettamente tipo di sonorità, andiamo e cambiamo anche serata, eh. Serata infatti di sabato 27 di maggio e questo è quello che vi aspetta. In quel di via Prenestina 173, e cioè al centro sociale occupato e gestito ex SNIA Viscosa. Bipolar Disorder. Per White Dips 69 da Teramo. We'll be right back. White Dips Dixie 69 e usiamo poi l'articolo femminile con Cristina alla voce, Lorena alla chitarra, Daniela al basso e Gabriella alla batteria. Con il loro garage punk più sanguigno. E selvaggio. Questo è Backdoor. All'attivo per loro, ma soprattutto una infinita serie di concerti di qua e di là per la penisola. Ma di tanto in tanto gli piace ritornare in quel del Teramano. Di serata per sabato a sculettare. Uno, due, sei, nove. E a scabocciare. il curioso titolo del lavoro del 2014 che si chiama Menopause, e che in copertina recita proprio, segna proprio i caratteri del meno e della pausa. Questo invece è Toy Boy. Dal più recente lavoro del 2018 che si chiama The Gangband Theory. White Ips 69 per la serata di sabato al Forte Prenestino. Sì, a Prenestino. A Via Prenestina 173, all'ex... Alex Snia, per la festa dei 46 anni di Onda Rossa. Loro suoneranno quindi alle 22 circa e 30, perché saranno precedute invece da un altro gruppo di quelli che hanno suonato per noi tante volte e ritornano ancora alla Radio Onda Rossa, anche loro ricchissimi, sappiamo, in questo periodo di concerti in giro per vari posti, un po' di con tutte le caratteristiche, luoghi occupati, locali sempre piuttosto alternativi. Stiamo parlando di Plutonium Baby. Parlando di Daniela Black Guitar, anzi Black Guitar, la voce, la chitarra, i synth, ex frontman delle Motorama, di cui ricordiamo nei primi anni 2000, insomma, le gesta e i bei lavori di anche importanza. No, commerciale no, non voglio dire commerciale, però insomma le produsse Bugo quando però era drogato forte. Filippo Phil Sharp, synth chitarra voce, effetto de al basso e alla batteria. Effetto grava la batteria e poi alla fine, che appunto facevano parte dei Cactus, e di cui vi abbiamo parlato in precedenza. Nel 2018 si aggiunge al basso Alessio Trebbia, e Trebbia di nome è de fatto, eh. E poi nel 2020 la pubblicazione di questo lavoro che state ascoltando sotto la voce, con Freddy Williams. La traduzione fatevela da soli, producendo un EP di 4 tracce brevissime del punk garage californiano della fine degli anni 70. Poi arriviamo per Plutonium Baby ai giorni odierni, in cui c'è l'ingresso del quinto elemento. Loren. E quindi sia nel 2023 appunto si aggiunge questa nuova sorpresa in concerto per Radio Onda Rossa, sabato 27 di maggio. Dalle ore 21. Yeah. quindi per Plutonium Baby anche un po' di tracce da Blast, il loro lavoro ultimo pubblicato così per intero. ...2018... prodotto da Area Pirata. Senti come suona. E nel frattempo un abbraccio al fantasma. What kind of human are you? È la domanda che si pongono Plutonium Baby. Quindi andiamo ad elencare un po' per esteso il programma della Due Giorni del Forte e poi parleremo anche di altro, di questi giorni per la Radio Onda Rossa. Si comincia quindi il 26 maggio alla SNIA, venerdì 26 maggio dalle 18, quiz a premi in oculare. Hai la preparazione necessaria per le lotte del futuro? 10 domande su 10 temi riguardanti l'energia nucleare e le sue criticità, per ragionare assieme divertendoci e per aprire con qualche nozione in più il dibattito sulle lotte ambientali in tempo di guerra che seguirà l'iniziativa. Dalle 21 ai Shine. Rag Band. E dalle 22:30 Salti Frontali. Per chiudere la serata dalle 24 l'angolo Mojito, che tutte e tutte conoscete, è appunto questo banchetto dove si alternano quelli che sono i DJs e le DJs vabbè, insomma. Noi altri alla console, mettendo le musichette. Selezioni musicali reggae, pop, electro and trash music. Sabato 27 maggio, quindi tradizionalmente il sabato è dedicato alla Perirror, e difatti dalle 18 a Perirror. Molte trasmissioni della radio comunque andando in diretta direttamente dalla SNIA per la 2 giorni. Dalle 21, e ne stiamo parlando proprio adesso, Pluton & Baby Live Band. E poi dalle 22.30 White Deep 69, che abbiamo sentito in precedenza. Anche per questa serata è in funzione l'angolo Mojito con selezioni musicali. Questa sera, questa volta, per questa sera celebrata trasmissione musicale di Red Onda Rossa nel martedì sera. Note cose città, punk, post punk e garage. Entrambe le serate vedranno appunto il bar e la cucina curate sempre da noi altri di Radio Onda Rossa. E in particolare dal grande Giacomazzo, chef ufficiale di Radio Onda Rossa, che comunque se la comanda ai fornelli. E importante, dalle 21 sottoscrizione. Di 5 euro all'ingresso per Radio Onda Rossa, lo dicevamo la scorsa puntata, non è che stiamo a giocare qui, ne va della esistenza della radio, quindi venite con la 5 euro in bocca. Vabbè, in mano, dai. Senza fare tante storie, perché insomma non sappiamo più come dirvelo, insomma Radio Onda Rossa vive grazie solo a questo. Se l'ascoltate è perché ogni tanto sganciate i soldi anche nelle iniziative della radio, per noi è veramente importante. E comunque avremo la pazienza ancora una volta in sottoscrizione di rispiegarlo a tutte e tutti gli avventori e le avventrici. Le avventure, boh, come si dice? Ricordandovi venerdì 26 maggio di partecipare a Nuculare, dalle 18 di venerdì, quiz a premi di cui vi abbiamo raccontato già sopra, ma non vi abbiamo detto che ci stanno i ricchi in palio, ricchi premi e cotiglioni. veniamo, ritorniamo indietro, anzi, a mercoledì prossimo. 46 anni di Ror. Auguri Ror, in ricordo di Salvatore Ricciardi e Marcello Pocaluce. Ne abbiamo già così anticipato qualche cosa, qualche impressione rispetto a queste due persone che hanno accompagnato la vita della radio per tanti anni in modo diverso e ognuno con il proprio approccio, diciamo. Salvatore più centrale, più partecipante al dibattito, Marcello, Blasi, Pocaluce invece, come amava far lui, di fianco, collaterale, sempre pronto a mettere su le sue idee, le sue produzioni. Di creatività e artistica, potremmo dire, insomma, disegnava, scriveva. Sempre inquieto nel produrre, nel creare, quanto invece era quieto nello stare in tranquillità mentre lo faceva. E quindi mercoledì 24 maggio, Una storia proletaria è il ritratto di Salvatore Ricciardi, Salvo, per compagni e compagne, amici e amiche. Un militante comunista che ha attraversato la lunga fase di ribellione collettiva che ha segnato per quasi 30 anni la storia italiana, dagli scontri di Porta San Paolo a Roma nel 1960, alle lotte studentesche operaie degli anni 60 e 70, all'esperienza della lotta armata, a lunghi anni in carcere, in un'innovata e mai interrotta militanza nelle piazze, nei movimenti, nei luoghi di lavoro e dai microfoni di una radio che sarebbe poi la nostra. Ritornando nelle strade e nei quartieri che l'hanno visto protagonista e dove si è formato politicamente, Salvatore ricostruisce la sua esperienza umana politica contraddistinta dalla coerenza che, come lui diceva, è la sola morale proletaria. Ed è proprio vero che Salvatore era così un pezzo del pavé della strada che ci contiene. Fu tra l'altro uno dei primi apritori delle sedi occupate di Via dei Volsci, dei primi comitati autonomi operai, delle prime assemblee autonome, nella fattispecie di quella dei ferrovieri, proprio perché San Lorenzo era adiacente alla stazione Termini. Stessa cosa Marcello, che in una breve occupazione che ci fu a piazza dei Siculi, mi sembra, non lo so come si chiama quella piazza, comunque adesso c'è un hotel famoso, insomma, era uno degli animatori di questa occupazione, nonché si vedeva spesso in via nei locali occupati qua sotto, insomma. Per entrambi non può essere migliore il luogo, appunto, sotto la radio per raccontarli e ricordarli. Infatti dalle 18 per mercoledì prossimo la presentazione del libro I nodi al pettine di Marcello Pocaluce e Blasi, a seguire Brindi 70 curi Radio Onda Rossa e poi la proiezione. Inedita del documentario su Salvatore Ricciardi, Una storia proletaria, 50 minuti, regia di Toto Mondo. il tutto qua sotto, via dei Volsci 56 a Roma, sotto la radio. One moon is not beautiful, muscle or rich. Love is to receive something that can be explained. Love is give your heart to who never give you pain. Sister, you must listen to your mind. If you don't like it, it's better change the tide. True love plays always the right course. True love will and never make noons. Can't, no, the one I want with my hand, hold my self in the air. set me free, I free myself. Miss Bye. E anche qui andiamo a... Know them, care about them, teach and protect them. Affrontare l'argomento del pezzo forte della... di un altro pezzo forte della serata di venerdì che non avevamo sfiorata ancora. Stiamo parlando della Shine Ladies Reggae Band. È come un tempo, ma come anche oggi le vibrazioni nella notte di Radio Onda Rossa. Children of the Ghetto, I Shine. E ci piacerebbe vedere, sentire il trillo. E proviamo pure a alzare un po' la cuffia dalle orecchie per vedere, per sentire il trillo. Dai, dai, dai. Al 2004 I Shall Lead the Band. Sono riuscite peraltro a partecipare a Rototom Sunsplash e quindi a confrontarsi col gota del reggae giamaicano. la leggenda vivente del red africano Alpha Blondy. Suonando così a fianco di mostri sacri veramente della mia, della nostra epoca, Black Uhuru, Terry Morgan, Sister Nancy. Nothing you can keep in the hand. So start to say tomorrow to change our day. So start to say tomorrow and say today. So start to say tomorrow and start to give. Eppure invece sono sempre pronte a venire in soccorso alla radio. E a loro modo a sostenere quindi Radio Onda Rossa e esibirsi per noi venerdì 26 di maggio. E ancora Asian Ladies Reggae Band. Children from the ghetto, don't give up on them. Remember, loving at the ghetto, peace in the ghetto. Don't forget, the ghetto of unity. Questa è Gimme the Wedda nella versione remix, senti che bomba. Come ai vecchi tempi, dai, rimandiamola da capo, dateci l'incipit. Dai, da capo. O come si diceva un tempo, come again. Gimme the Wedda remix. It's hard enough to rule the plants and flower. There is nothing more amazing than the sense of me la poa. We'll be right back. amazing than the sense I'm in la poa. When there is no water deep then finding down the base. When it's raining hard really just eat up on your face. No police it's hard enough to rule the plants and flower. There is nothing more amazing than a weather. Weather. Weather. Bo bo bo bo. Love is respect, never forget. E vi consigliamo di guardare invece sul tubo o su qualche altra piattaforma il video di... Se avete fatto, ovviamente. Di Love is Respect, che è anche il titolo, la title track del lavoro. Love e respect da capo. Love is respect, never forget. Capito? Love is respect. respect her even when she no longer a bed with you. Talk to her. Open your heart, because love is respect. Nove minuti dopo la mezzanotte ce ne andiamo così. Quindi quasi due ore ancora una volta in diretta per raccontare e soprattutto farvi ascoltare la musica che poi ascolterete dal vivo nei prossimi... la prossima settimana. E raccontare come si svilupperanno, come si svilupperà questa tre giorni per il compleanno di Radio Onda Rossa e per il finanziamento di Radio Onda Rossa stessa. 24, 26 e 27 maggio 2023. Il 24 maggio qua sotto la radio, il 26 e il 27 all'ex SNIA in via Prenestina 173, accorrete tutte e tutti. Tempo la radio continua a trasmettere come fa tutti i giorni da 46 anni. A una certa però lasciamo la console alla compagna automatica Sonata, che pure lei si impegna molto nel mandare le repliche. La trasmissione le sue bizzarre selezioni musicali. E così sarà anche per questa notte. Vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Sonata. Le trasmissioni in diretta della radio però riprenderanno fra qualche ora dalle 8, quando ci saranno in ordine la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina, poi redazionali, fino circa a quando finiscono. Può essere mezzogiorno, può essere le 11:30, può essere pure l'una. Questo dipende da quante corrispondenze ci sono durante la mattinata, poi c'è una breve pausa e si riprende con tutta Scena Cinema dalle 14 alle 16, la trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa, Attica Blues dalle 16 alle 17, oltre la Black Music dalle 17 alle 18:30 ci dovrebbe essere La Schiena del Sol, ma diciamo è informato in questo periodo un po' così. Non sempre ci sta. Molte volte c'è però Utopia, che invece è la trasmissione che parla di cibo in tutte le sue accezioni. Dalle 20 alle 21 Tabula Rasa e poi a chiudere I Cuginetti di Apostasia. con le loro selezioni. Il nostro saluto più importante va ovviamente, come sempre, come in tutti questi anni, a tutte e tutti coloro che ci ascoltano da condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, centri di detenzione per migranti, decreti amministrativi con i loro obblighi disumani. Facciamo di tutto per far sì che le mura delle carere si infrangano, si sbriciolino sotto il peso del loro nonsenso. Noi ci risentiremo forse magari in un quacervo di voci di festa di redattori e redattrici che si rincorrono fra loro mercoledì prossimo, e poi forse il mercoledì successivo, non lo so, vabbè, comunque non è importante. L'importante è che continuate a sostenere Radio Onda Rossa. L'importante è che ci venite a trovare durante la 3 giorni. Bella a tutti e a tutti, noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, dai! our dreams. I'll share our dreams under a communist moon.